prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Anche questa settimana nella rubrica che realizziamo insieme alla Caritas tocchiamo il tema profughi, è un tema particolarmente sentito dati gli appelli del Papa ripetuti anche domenica scorsa nell'Angelus in occasione della Domenica delle Palme, date anche le cronache stringenti di questi giorni dopo l'accordo siglato tra Unione Europea e Turchia e le difficoltà che ha avuto la Grecia ad applicare fin da subito questo accordo. Ebbene, risale a un paio di anni fa, aprile 2014, un protocollo d'intesa tra la Caritas italiana e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la valorizzazione del volontariato e della solidarietà sociale. In questi due anni il Ministero e la Caritas hanno promosso una serie di attività per diffondere tra gli studenti e i giovani il valore della solidarietà sociale e la sua traduzione in interventi concreti. In occasione del Giubileo della Misericordia e proprio su invito della CEI, Fondazione Missio, Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, cioè la FOCSIV e la Caritas, hanno lanciato la campagna intitolata Il diritto di rimanere nella propria terra, per promuovere e garantire a ciascuno il diritto di restare nel proprio paese vivendo in modo dignitoso. Papa Francesco, indicendo l'anno giubilare, ci ha indicato infatti la via dell'accoglienza della carità concreta. Le nostre chiese sono da sempre in prima fila nel servizio, nella tutela, nell'accompagnamento dei più poveri di fronte al dramma dei migranti che continuano a perdere la vita lungo le diverse rotte della disperazione. Il Consiglio Permanente della CEI ha approvato anche un vademecum con una serie di indicazioni pratiche per le diocesi italiane, ne abbiamo già parlato in puntate precedenti, a proposito dell'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia e per la solidarietà con i paesi di provenienza dei migranti. In questo vademecum viene evidenziato il doveroso impegno di accoglienza che non deve farci dimenticare le cause del cammino e della fuga dei migranti che arrivano nelle nostre comunità, le guerre, la fame, i disastri ambientali, le persecuzioni politiche e religiose, sollecitando appunto a riconoscere il diritto di ciascuno a restare nella propria terra. Ebbene, Caritas, FOCSIV e Fondazione Missio hanno elaborato una serie di proposte, appunto ci sono siti internet, riviste, approfondimenti dedicati, tornando appunto sul tema proprio dell'accoglienza. La CEI chiede di valorizzare appunto le esperienze di cooperazione internazionale e cooperazione missionaria. Nell'anno giubilare le chiese che sono in Italia si impegnano a sostenere 1000 micro realizzazioni nei paesi di provenienza dei migranti che sono in fuga appunto dalle guerre, dalla fame, dai disastri, dalle persecuzioni. Le proposte appunto sono già state fatte ad esempio nel mese di dicembre, sostenendo ad esempio le comunità locali all'accesso ai beni e ai servizi essenziali, la terra, l'acqua, il lavoro, la salute, l'educazione, sono le cose appunto che già il Papa aveva ricordato più volte anche nel suo viaggio in Messico piuttosto che in Africa. Un tetto, cioè una casa, una terra e un lavoro, techo, terra y trabajo in spagnolo, finanziando anche attività concrete per la formazione professionale, appunto il lavoro dignitoso. Questi progetti appunto del valore di poche centinaia di euro, appunto massimo di 5.000 euro a progetto, sono state applicate appunto già da gennaio in Angola, Burkina Faso, Camerun, appunto in diversi paesi dell'Africa, di cui magari non sentiamo necessariamente parlare nelle cronache quotidiane. Altri progetti sono stati poi attivati nel mese di gennaio, si va ad esempio dalla piantagione di alberi da frutto, cito proprio alcuni casi, a laboratori di artigianato, avviamento al lavoro per ex detenuti, serre, irrigazione, costruzione di pozzi, allevamenti di suini e galline, cioè anche cose effettivamente molto molto semplici. Un'altra iniziativa è un concorso fotografico nazionale, diritto di restare, di migrare e di vivere, sempre nell'ambito del protocollo d'intesa tra la Caritas e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il tema è appunto quello di garantire a tutti una vita dignitosa per consentire ad ognuno di scegliere se restare nella propria terra o migrare e trovare accoglienza in altri paesi. Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in forma individuale o in gruppo. Dovranno ovviamente documentarsi sul tema oggetto del bando. Il concorso chiede la creazione di un prodotto a scelta tra una fotografia, un breve scritto al massimo di 1800 battute, inclusi gli spazi, oppure di un disegno. C'è tempo ancora un mese, poco più, fino al 30 aprile prossimo, appunto, per inviare le schede. Trovate i dettagli sul sito caritasitaliana.it oppure scrivendo una mail per ulteriori informazioni a concorso.miur@caritas.it e tutti i dettagli appunto con le modalità di partecipare, appunto, ripeto, per gli studenti di ogni ordine e grado di istruzione in forma individuale oppure in gruppo. Il concorso è questo e il tema è diritto di restare, di migrare e di vivere, con una foto, un breve scritto oppure un disegno. Tutti i dettagli, ripeto, sul sito caritasitaliana.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.